Rosario Lo Russo, nel nosocomio, 3. Tu che sei nell'alto di Sky, aiutami, dottor. Casa, fa che non mi caccino proprio ora, che non ho più soldi dal nosocomio ormai. Mi sono affezionato, disinvestirò altri soldi, ma tu aiutami, dottor. Casa, assistimi durante la colonscopia che ho domani. Ho paura, è la terza, ti mettono un tubo lungo nel culo, mi vien sempre da vomitare, ma tu, dottor Casa, che sei così dolce e spietato, così sicuro di te, così pazzo e sexy, quando zoppichi veloce, accorri in mio aiuto prima che facciano che gli altri in sala d'aspetto, facciano che mentre mi inseriscono il tubicino, gli altri facciano zapping.